La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Costole rotte, bottiglie rotte, questa notte suonerà una sirena della polizia, l'ambulanza tarderà, come fa caldo in mezzo alle porte della centrale di polizia. Qualcuno non dormirà, qualcun altro andrà via. Grida un uomo per strada. Buonasera, ben ritrovati alla prima volta. Questa è una puntata che ha come protagonista Coez, un musicista che ha dentro tante cose da raccontare, come questa canzone che sentite, Costole rotte, una canzone ispirata a Stefano Cucchi, il geometra romano morto a causa delle percosse subite in carcere nell'ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. La storia di Coez è caratterizzata da una prima volta che ha il sapore di Roma, dei graffiti sui muri e anche di tanta musica rap. Una prima volta professionale che coincide con il suo primo album inciso, come ci racconta lui stesso, e tutta l'emozione che questo si porta dietro, ma che in questa prima volta non dimentica il punto di partenza, l'infanzia, la madre che lo ha cresciuto da sola con tutti gli annessi del caso. No, diciamo che io sono uno di quelli che comunque ha fatto tantissimi piccoli passi per una vita, fino magari a qualche mese fa, che forse è successa una cosa un po' più grossa, insomma, rispetto alle altre volte. E forse l'esordio può essere il primo esordio con una casa discografica, magari è stato quando ho fatto il singolo Agli Sporchi, prodotto da Riccardo Sinigaglia. Forse quello fu il primo, tipo la prima cosa, tipo che ne so, mo non giochiamo più, capito, mo diventa tipo un lavoro. Forse è stato quello lì. Perché fino ad allora tu l'hai sempre vissuto in una maniera sperimentale, la musica, non avevi un'aspettativa in un senso o in un altro? Cioè Ma diciamo che col rap prima non c'era il modo di avere aspettative, nel senso quelli della mia generazione sono stati i primi comunque a costruirsi un lavoro, i primi a far interessare le etichette discografiche. Prima di noi c'era tanta voglia, tanta passione, però una chiusura totale da parte di tutte le strutture, che diciamo con la mia generazione invece questa cosa è cambiata, ecco. E si discute molto anche del fatto che proprio nel momento in cui il rap arriva in Italia e si trasforma in qualcosa di più, come dire, popolare, tu lentamente te ne smarchi, perché poi in questo album resta ancora un po'... Sì, perché ero comunque già grande, non so come dire, già mi rivolgevo a un pubblico un po' meno giovane, anche se con queste cose che faccio adesso arrivo anche giovanissimi, però non so come dire... Era cambiata la generazione, i ragazzi che cominciavano a sentire il rap volevano artisti un po' più vicini a loro a livello di età. Io questa cosa la percepivo, e in più stavo cambiando proprio io gusti mentre crescevo, stavo ascoltando anche un sacco di altra musica. Cioè il rap è una costante, però non è che ho ascoltato solo quello, come magari da più giovane sicuramente ascoltavo il 99% quello, e poi ogni tanto quello che passava alla radio diceva bello sto pezzo, fine. E invece adesso che cosa ascolti, cioè in questo periodo? Ma adesso non so perché, ma mi sto ascoltando un sacco di roba tipo anni 90, tipo di nuovo guarda, ascolto King Krul, che uscito il disco adesso, per il resto ascolto un sacco di roba vecchia, un sacco di roba inglese, tipo sto risentendo molto The Streets, non so, le vecchie fiamme, no? Tipo intanto ritornano, però diciamo che di roba nuova che esce così non c'è troppa roba che mi interessa. Per chiudere l'argomento proprio collegato al tuo esordio col rap, le persone che erano con te, diciamo, in quel momento di crescita, di sperimentazione, anche loro hanno fatto lo stesso tuo percorso? Cioè, perché quello che mi interessa è raccontare che far parte di un certo mondo significa più cose, cioè non significa solo scrivere musica rap, ma magari anche muoversi nella città frequentando alcune zone piuttosto che altre. Boh sì, anche se io non ho mai fatto un genere troppo relegato a un luogo, cioè in generale, e ti dico ultimamente neanche ho un linguaggio, quindi non lo so, nel senso cerco pure sempre di usare un linguaggio abbastanza universale quando scrivo, cioè anche il fatto di non avere l'accento, magari ce l'ho quando parlo ma non quando canto, non lo so, in qualche modo è sempre per essere più in realtà aperto a chiunque senza ghettizzarmi. Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba e te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego, e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Oh. Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto. E fare la figura dello scemo, era meglio se non ti conoscevo. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. La prima volta. Ben ritrovati a questa nuova puntata della prima volta. L'ospite di questa sera è Coez, cantautore italiano, romano d'adozione ma nato a Nocera Inferiore. Un percorso artistico, quello di Coez, che inizia a 19 anni, quando ancora la sua fama resta chiusa dentro Roma e nel mondo del rap, sino ad arrivare ad oggi col suo nuovo album Faccio un Casino, che è tra i più ascoltati su iTunes e Spotify. Io non cerco di comunicare, nel senso io scrivo le cose che mi... cioè che c'ho dentro fondamentalmente, poi non è che non c'è questa ricerca di comunicare, cioè è proprio... Però nel momento in cui scrivi succede, tu stai succede. Comunicando... Sì, sì, succede, ma non è che tipo, non so cosa voglio comunicare, io intanto scrivo, poi quello che voglio comunicare lo decideranno gli altri, insomma, quello che arriva alle persone lo decidono loro. Secondo me nessuno fa i dischi e si mette là e dice ah oddio voglio comunicare questo. Secondo me, perché poi io, cioè uno, a uno gli escono le cose più assurde e più fighe proprio nel momento in cui non pensa a niente, secondo me, cioè c'è molto poco di ragionato dietro le canzoni, poi magari dietro i personaggi, quelli fatti a tavolino, così ok, allora facciamo questo, quest'altra, forse lì c'è tanto di ragionato. Per quello che riguarda i miei dischi sono un po' le cose che vivo una cosa, mi lascia un'emozione, sento la musica, la scrivo. Niente di più, niente di meno. E in tutto questo allora rientra anche la canzone Yo Mamma, che racconta certo. Molto questo aspetto, no? Come nasce questa canzone? Poi volevo sapere come, se l'hai fatta ascoltare per prima a tua mamma e come ha reagito. L'ho fatta ascoltare prima a mia madre. Io l'ho mandata per il compleanno, in mail... E vabbè, ha pianto chiaramente, come penso, beh, calcolo, hanno pianto anche persone che non erano mia madre, quindi immagino mia madre abbia pianto di più, però non ero lì presente mentre l'ascoltava. E questa va per te che hai lottato per me, c'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu m'hai dato un'arma E io, mamma, questa va per te che hai lottato per me. Succhiate genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma, tu mi hai dato un'arma. E io, mamma, e io, mamma, scrivo dal treno fuori per suonare, che sono in giro con il personale. A volte non mi prendo il cellulare, ti scrivo, dopo ti richiamo. Era il suo compleanno, non, per qualche motivo non ci vedevamo quel giorno, glielo ho mandato in mail così, tipo regalo, no? E tu hai avuto modo di leggere i commenti che ci sono sotto la tua canzone su YouTube, perché sono molto belli, cioè sono commoventi. Sì, sì, sì, li ho letti anche una volta in un momento un po' così che c'avevo e sì, mi sono abbastanza commosso. Vero, sì, ce ne sono alcuni sì. Che sono veramente... Sì, mi è successo proprio di... Era pure una giornata del cazzo, non so perché mi sono andato a leggere quei commenti e... Sì, mi ricordo proprio, mi hanno abbastanza toccato emotivamente, ho chiuso tutto e ho chiuso il computer, basta. Beh, però è, secondo me è molto bello, no, perché è una bellissimo, canzone... Bellissimo, però devi leggere, magari quelle cose le leggi in un momento in cui te lo puoi permettere. La tua musica è conosciutissima, ma non passa in radio e... Ma in realtà, per fortuna, guarda, diciamo che tutto quello che ho raggiunto fino ad adesso, comunque tutto questo tour, sold out... Tutta la roba di Spotify, secondo me, per ora l'ho raggiunta con le mie forze. Devo dire che adesso, comunque in realtà i pezzi li stanno passando, cioè comunque anche la musica non c'è, è arrivata comunque abbastanza alto in airplay. La cosa che sicuramente dico io è che anche i dischi precedenti avevano qualcosa di radio friendly, quindi... Non so, spero che poi la gente comunque anche senza le radio li riscoprirà, però per ora insomma mi sembra che, cioè, che finalmente le radio invece questo pezzo me lo stanno mandando, l'ho beccato io ieri due volte nel giro di un'oretta, quindi insomma si sono sbloccati, diciamo, i miei fan chiaramente sono arrivati molto prima di tutte le strutture in generale, adesso però... Cioè, sono uno di quelli che è stato portato su, diciamo, dai fan più che, no, più che dalle radio. Dalle sì, schede, e questo forse ti dà più solidità. Questo mi dà più solidità, non mi devo lamentare di questa cosa delle radio, perché poi è successo che sul Corriere in realtà è uscito questo titolo dove io dicevo questa cosa delle radio, in realtà era riferito appunto agli album precedenti, chiaramente io ho sempre avuto... il pallino per entrare in radio non è una cosa di cui non mi interessa, anzi mi è sempre piaciuta l'idea e infatti magari ecco per i dischi precedenti ci rimanevo anche male quando poi la roba non veniva presa in considerazione. Finalmente devo dire che mi stanno prendendo in considerazione pure loro. Quando vai in giro cominciano a riconoscerti o sei ancora... Allora io a Roma sono famoso da anni praticamente perché comunque ho sempre avuto un seguito gigante in questa città. Ora abito a Milano e vedo che mi riconoscono anche lì e quando torno a Roma cerco di uscire sempre con cappuccio per l'occorrenza, capito? No, perché il romano ti vuole tanto bene, però è un po' più espansivo, capito? Cioè, ti abbraccia, ti ferma. Sì, capito, quindi devi stare un po'... Cioè, dipende poi dalla giornata, anch'io sono abbastanza espansivo. Però dipende anche dal giorno, cioè a volte puoi, a volte non puoi, a volte vai di fretta, a volte no, a volte è una giornata brutta, a volte sei col sorriso, cioè dipende da tante cose, quindi un cappuccio va sempre bene. Hai qualche progetto insomma per il futuro? Per ora mi sto concentrando su questo tour, ho smesso di fumare, di bere, sono a dieta, sto facendo la vita più sana possibile, diciamo che comunque vengo da 35 date di quest'estate, sto per farne altre 29 nel giro di un paio di mesi, quindi insomma, sarà dura, però insomma, mi sto preparando fisicamente e basta. Insomma, per ora guarda, penserò solamente a questo. Vi lasciamo sulle note di Costole Rotte, la canzone con la quale abbiamo aperto questa puntata dedicata, come dicevamo, a Stefano Cucchi. A domenica prossima, ciao a tutti, da Cristina Costole Carpinelli. Costole rotte, bottiglie rotte, questa notte suonerà una sirena della polizia.